Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia, l'ideologico quotidiano. Una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, grazie a Ezio De Gradi per la regia e a Mondo Orchestra per la sua musica. L'appuntamento rimane confermato domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata a tutti. La replica, ricordatevi la replica, è sempre mercoledì notte dopo l'ultima edizione del notiziario. Una buona educazione e soprattutto un'educazione somatica. Ve la sentite di insegnarlo al vostro corpo e a quello degli altri? Al centro Feldenkrais